Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, bollettino BCE. L'Italia non ha fatto progressi rispetto alla raccomandazione della Commissione europea di far scendere il deficit rimasto al 3% nel 2013, lo scrive appunto la BCE, chiedendo che Roma faccia i passi necessari e assicuri che il debito sia messo in traiettoria discendente. Intanto a Bruxelles è in corso una trattativa che vale oltre 32 miliardi di euro, 32 miliardi di fondi europei che potrebbero essere destinati per i prossimi 7 anni alle opere infrastrutturali, una trattativa che va avanti lontano dai riflettori. Fuori dalla luce dei riflettori, Bruxelles e Roma stanno negoziando un importante accordo di partenariato che vale oltre 32 miliardi di euro. Riguarda i fondi europei che l'Italia potrà utilizzare nei prossimi 7 anni in importanti progetti infrastrutturali. Della questione si stanno occupando anche le parti sociali. Il vicepresidente di Confindustria responsabile per le questioni del Mezzogiorno, Alessandro Laterza, è qui a Bruxelles in questi giorni per incontrare esponenti comunitari. L'obiettivo è di far sì che questo denaro sia utilizzato nel modo migliore e nel modo più efficiente. Dopo aver sciupato per decenni i fondi europei, la classe politica sembra rendersi finalmente conto che il denaro comunitario può essere oggi, in tempo di crisi, un cruciale volano finanziario. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Fondi europei che poi finanziano quelli che sono i progetti, e allora oggi di fatto seguiamo quelle che sono alcune delle ricadute. Parliamo di un incontro che si svolge oggi e domani a Napoli, Enterprise Europe Network, che è di fatto la più grande rete di servizi di assistenza gratuita a sostegno della competitività, dell'innovazione delle piccole e medie imprese, una rete a finanziamento europea nata nel 2008 per volontà della Direzione Generale Imprese e Industria. Opera in 54 paesi in Europa e nel mondo, conta circa 600 organizzazioni e in Italia è formata da 53 punti di contatto dove rivolgersi per informazioni e ovviamente per accedere ai finanziamenti. Ecco, in questi giorni a Napoli si discute di quali siano le opportunità e gli strumenti per le imprese meridionali. Vincenzo Schiavo è il presidente di Eurosportello Napoli, lo sentiamo al microfono di Valeria De Rosa. Rafforziamo la capacità di innovazione delle PMI, delle piccole e medie imprese, intercettiamo il fabbisogno delle piccole e medie imprese per cercare di far crescere le piccole e medie imprese nell'opportunità dell'internazionalizzazione. Aiutiamo le aziende ad individuare i partner, perché noi abbiamo una rete su tutta l'Europa con oltre 600 organizzazioni e 4.000 professionisti in Europa pronti a poter interscambiare con i nostri imprenditori le informazioni. Aiutiamo a migliorare l'accesso al credito e ai finanziamenti in Europa. Vi vengono sottoposti dei progetti o semplicemente delle richieste? Possiamo sia ricevere una richiesta da un imprenditore che ha il fabbisogno di investire in un paese o vuole entrare in un mercato, vuole avere delle informazioni di una tipologia di prodotto da inserire in altri mercati. Noi abbiamo anche 10-15 missioni l'anno di paese che ovviamente possono entrare all'interno e fare parte probabilmente delle nostre reti di contatto. C'è uno sportello unico? Possono rivolgersi alla nostra azienda speciale che è l'Eurosportello, che è in Camera di Commercio, possono rivolgersi all'Unione Regionale della Campania e possono rivolgersi all'azienda Enea, che è l'azienda nazionale per le nuove tecnologie. Che ammontare di fondi avete a disposizione? Una cifra non sono ancora in grado di potergliela dare, ma sicuramente saranno calcolati più di 1,4 milioni di euro per le attività previste per il programma Horizon 2020. E questo era Vincenzo Schiavo al microfono di Valeria De Rosa. Potete risentire, anche magari per risentire i dettagli, dove accedere ai punti informativi su radio24.it. Da Filippo Aureggi in regia, Gigi Donella al microfono, un saluto. Europa 24 torna domani. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.